Il diario della principessa, Eugenia von der Leyen. I miei colloqui con le povere anime. Avevo sentimenti troppo terreni e materiali. 12 ottobre. Mentre stavo seduta alla scrivania, fui circondata in pieno giorno da una fitta la nebbia o fumo in odore. Non riuscivo più a distinguere i quadri alla parete. Domandai se erano gli 11, ma non ebbi risposta. Allora aspersi con l'acqua santa e tutto fu di nuovo chiaro. Ho visto in chiesa il cavaliere. Uscì dall'oratorio e gli chiesi: «Posso fare qualche cosa per te?» Egli continuò a pregare senza badarmi. Da vicino a un aspetto simpatico nella sua splendida armatura, come un pezzo da museo. Io non sono abbastanza competente per stabilire di che secolo sia. Ho tanta paura che mi succedano ancora cose gravi. Dal momento che le mie annotazioni devono dire la verità, deve anche dire che senza la Santa Comunione non ce la farei a resistere. 13 ottobre. Ho passato una notte davvero molto movimentata. All'ospedale ho visto Suor Edvige, ed ho parlato con lei sulla scala. Io? Perché sei sempre qui? Lei? Io ero troppo attaccata alla terra. Poi entrò in dispensa. Non ha più un aspetto così triste. 15 ottobre. Gli 11 mi passano davanti come in volo. Non rispondono. Durante la notte un fracasso orrendo vicino a me. Ora vengono tre figure irriconoscibili. 17 ottobre. Durante il giorno di nuovo nebbia intorno a me, poi l'inconfondibile sensazione che c'è qualche cosa qui. 19 ottobre. Sento un urlo vicino a me e mi sveglio di soprassalto. Poi una confusione di suoni e ancora nebbia. 20 ottobre. C'è qui una figura. 21 ottobre. Le figure nebulose corrono su e giù per la stanza, non si sa che fare con loro, esse saltano intorno anche mentre sto pregando. Non mi riesce di descriverle come sono esattamente. La parola nebbia non è forse quella giusta, piuttosto una forma di vapore. Finora non c'è ancora niente da temere, solo è antipatico. Esse assomigliano agli 11, ma sono anche diverse, sono più scure. Ho visto di nuovo il cavaliere. Egli è di un'altra categoria da quelle che ho visto finora. Egli ha un bellissimo aspetto di felicità e continua a pregare senza muoversi. 24 ottobre. L'apparizione si fa un tantino più chiara. Sembra una figura di donna. Delle tre strisce di nebbia non si vede più niente. 25 ottobre. Molto fracasso, quasi insopportabile.